ogni venerdì mattina. Svegliarsi con un sorriso, è tempo di scoprire nuove idee. Con Simone Pizzi, il grande reset. Un dialogo sincero per costruire insieme un futuro più vero. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, ascoltarsi e confrontarsi con mente aperta e cuore. Runtime Radio, la voce del progresso. Simone Pizzi ti aspetta per un nuovo inizio. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore. Ascoltare, siccome il tuo testa in cuore. Runtime Radio, la voce del progresso. Simone Pizzi ti aspetta per un nuovo inizio. Il grande set. E vabbè, come vedete, questa è una sorta di versione alternativa di quella che doveva essere la canzone originale. Abbiamo cercato di fare una sorta di remix utilizzando praticamente Refusion, che carica le canzoni fatte con l'intelligenza artificiale, o qualsiasi altra canzone magari che ti sei scritto da solo con la chitarra, gliela carichi, lui ti elabora una sorta di testo, tu correggi il testo e poi lui ti fa un riarrangiamento, diciamo così, di queste canzoni. Però come al solito ci devi perdere molto tempo, fare tante generazioni, perché poi alla fine cominciano di cose a caso, tipo ciao belli di casa, bentornati qui al Grande Reset. Sono Simone, come tutti i venerdì mattina, e insomma è mancato per un po' di tempo, ma poi alla fine comunque in un modo o nell'altro siamo tornati. Scusate, mi sono aggiustato il volume delle cuffie, sennò non sento una ceppa e non è bello, non è bello sentire una ceppa. Ma è bello sentire, no, le ceppe no, ma comunque vabbè, avete capito quello che volevo dire? Quanto sono simpatico questa mattina, tante novità ragazzi, tante novità. Intanto vabbè, stiamo lavorando per ripristinare la radio a condizioni decenti, rimettere dei player, il sito, insomma stiamo veramente lavorando questa volta nel background, nel sottofondo, nel sottobosco, nel dietro le quinte. E dopo tanto tempo abbiamo rimesso mano a tante cose, cercando di veramente trovare delle soluzioni che siano quanto più definitive possibili. Ora risiamo di nuovo in una fase in cui stiamo facendo dei test, dove ovviamente speriamo poi di riuscire a raggiungere un po' una quadra, no? E poi riproporre ovviamente al pubblico comunque un nuovo design, un nuovo player, un nuovo stream, ecco, da questo punto di vista, cercando insomma di proporlo già bello testato piuttosto che buttarlo nella mischia come facciamo sempre, vediamo come funziona. Ragazzi, ci sono problemi, diteci, o cose del genere. Ma nel mentre, comunque, diciamo, questa è una puntata basata su delle cose che voglio raccontarvi e che parzialmente vi ho già raccontato, ma ci tengo comunque un attimo a fare un punto della situazione, anche perché nelle prossime settimane ne parleremo. Ne parleremo, diciamo, da un punto di vista pratico, da un punto di vista tecnico, ma probabilmente anche da un punto di vista polemico, diciamo così, perché insomma sono situazioni che stanno un po' creando una sorta di dibattito, ecco, dibattito che forse è la parola giusta ed è anche la cosa più bella, no? Il fatto che si crei poi alla fine un dibattito all'interno di certe tematiche che ci sono molto a cuore e ci interessano tanto. Però stanno arrivando anche tante novità per quanto mi riguarda. Intanto, se volete, anche se è inutile andarci perché è veramente molto basic e sta cercando, e lo sto aggiornando piano piano quando trovo il tempo, perché non è che possiamo stare sempre dietro a tutte queste cose, c'è un sito che si chiama simonepizzi.rantemradio.it dove piano piano inserirò insomma i vari elementi, c'è un po' la storia, la nostra storia come podcaster, la mia avventura magari nel discorso dell'editoria, quindi cercare di raccontare un po' quello che sta succedendo e quando poi sarà pronto per la pubblicazione l'albero dei racconti, quella storia, insomma quel libro di cui vi ho già raccontato, che raccoglie racconti che ho scritto 30 anni fa praticamente, che sono stati completamente revisionati, diciamo, da un certo punto di vista professionalizzati, ecco, se vogliamo proprio dargli un po' questo tono, un linguaggio più maturo, più aderente, insomma, a un linguaggio di una persona adulta rispetto a un magari un approccio di quello che poteva essere il linguaggio scritto da un ragazzo dei 20 anni che comunque si approcciava così amatorialmente a fare questa cosa. Sempre amatorialmente rimane, però diciamo, da un certo punto di vista c'è stato un lavoro di rilettura, cercando di mantenere lo stesso stile identico che utilizzavo allora, perché comunque lo riconosco ancora, è comunque il mio stile, però cercando un po' di estendere magari il linguaggio o correggere quelle parti che oggi le sentivo stridenti dentro di me, pur rimanendo anche aderente poi al contesto temporale, no? Nel quale ovviamente certe storie vengono narrate. Il libro è pronto, è finito, è stato revisionato, insomma, già due volte, due o tre volte, e adesso è in attesa di essere impaginato professionalmente. Abbiamo dato incarico a Walter e alla sua azienda di impaginare, diciamo, questo libro, cercare di dargli una confezione professionale, e poi decideremo la strategia con la quale ovviamente affronteremo questo percorso. Ma in questo sito simonepizzi.rantemradio.it ci metterò anche questo mio percorso con gli LLM, con questa cosa che adesso ne parliamo, ne continuiamo a parlare un pochino, che è praticamente il fulcro forse di questa puntata, ma anche di tutta un'altra serie di aspetti che in realtà sono un po' un incrocio tra questo discorso dello sviluppo con gli LLM e la narrativa, quindi ovviamente la parte più editoriale, ossia praticamente il rimettere mano e l'aver quasi ricostruito, anche ampliato e strutturato in maniera forse più professionale anche da questo punto di vista, dei vecchi racconti interattivi che avevo iniziato, uno con Twine 2 e l'altro con Inkle Rider, che di cui poi parleremo magari nelle prossime occasioni, e che presto, insomma, saranno disponibili anche quelli per essere, tra virgolette, giocati o comunque letti in senso interattivo, quindi con il gusto di esplorare una storia e viverla un po' anche interagendo, una sorta di libri game interattivi, se vogliamo proprio chiamarli così, ma qualcosa di più del libro game, qualcosa di meno dal punto di vista magari letterario, perché magari c'è proprio meno parte, come posso dire, di spessore narrativo, insomma, da questo punto di vista. Quindi ecco, sono tante cose che piano piano buttiamo nel minchione, così che, insomma, poi nei prossimi mesi saranno tante cose di cui discutere. Ma mi rendo conto, molti mi hanno un po' criticato questa cosa, è che negli ultimi settimane ho un po' trascurato il fatto della versione estiva del Festival della Canzone Artificiale, Festival Ibar, e hanno ragione, mi rendo conto che questo è. Però, per esempio, io questa notte ho dormito come non dormivo, penso, da tantissimo tempo, perché Michela si è arrabbiata, ha detto: devi riprenderti un po', perché poi, cioè, quando io ho 50.000 cose nella testa mi rendo conto che poi alla fine c'è qualcosa che è. E quindi ieri ho detto: stacco un attimo, cioè faccio le cose, ma le faccio col dovuto tempo e il dovuto spazio, perché poi è giusto che dia più spazio e tempo alle cose magari più importanti a un certo punto di vista. Comunque, adesso entriamo nel vivo del discorso e vi faccio sentire una riedizione, dato che parlavamo ovviamente di Remastered, di una canzone che è nata con l'intelligenza artificiale in tempi non sospetti rispetto a quello che poi è successo dopo, ma che comunque in qualche maniera ha ispirato forse il decay, insomma, tutto quello che è venuto dopo, ma più che l'ha ispirato, secondo me c'è proprio un discorso di, come lo posso spiegare, di feeling con questo mood, con questa narrativa, insomma. Ma adesso capirete di che cosa sto parlando. Nel silenzio di cemento e ruggine mi alzo un'ombra tra le macerie, l'eco del passato in sussurro spettrale, nel cuore della notte un urlo ancestrale. Tra i lattami cerco vita, un segno, un respiro nel vuoto, un disegno, un sole che sorge, la lotta per sopravvivere, la fame che morde. siamo solo nell'abisso. Tempo, la speranza sparisce. Il ricordo che avvelena, l'ultimo sopravvissuto in questo mondo morente. La solitudine che divora, il dolore che tormenta. Ogni giorno una battaglia contro la natura, il fatto, la malattia che incombe, il futuro incerto e spietato. Tra le rovine cammino un fantasma senza pace, la civiltà perduta, un eco che non tace. Un uomo solo nell'abisso, tempo, la speranza svanisce. Il ricordo che avvelena, l'ultimo sopravvissuto in questo mondo morente. La solitudine che divora, il dolore che tormenta. Nella notte più buia cerco una luce, un barlume di speranza, una voce che seduce, ma il silenzio assordante. La paura mi divora, l'ultimo uomo sulla terra, un'anima che implora. Un uomo solo nell'abisso, tempo, la speranza svanisce. Il ricordo che avvelena, l'ultimo sopravvissuto in questo mondo morente. La solitudine che divora, tormenta. Un eco disperato nel vuoto dell'esistenza. L'ultimo uomo sulla terra è l'ombra che si spegne. La notte più buia dell'umanità, la fine di un'era, la sconfitta della realtà. La sconfitta della realtà, ragazzi. E questa è una canzone, diciamo, l'ultimo uomo, boom, botta finale che non c'entra niente, vabbè, ma comunque oramai questi sono i tentativi di prendere canzoni fatte su Suno e portarle su Refusion e cercare di rielaborarle. Ci sono diversi errori all'interno di questo brano di cui non mi ero neanche accorto, ma adesso erano le 6 di mattina, stavo cercando di giocherellare per portare del materiale, diciamo così. E la canzone si chiama L'ultimo uomo e non è un caso che sia comunque collegato poi a tutto questo, anche perché poi ho sempre avuto questa sorta di fascinazione atavica e terrore incommensurabile della solitudine, ma non la solitudine nel senso di stare solo, ma la solitudine nel senso più esteso e globale del termine. Questa cosa dell'essere l'ultima persona all'interno di un avamposto di civiltà, cioè oltre il quale non c'è più niente, è una cosa che è molto personale da un certo punto di vista, ma penso che sia proprio antropologico, perché penso al fatto che un giorno veramente l'umanità finirà, no? Che ci sarà un momento in cui non ci sarà più l'umanità, non ci saranno più le persone, non ci sarà più una civiltà, non ci sarà più niente, e questo rimarranno poi degli eco magari nel nostro mondo, e magari un giorno qualcuno dovesse trovare delle vecchie vestigie di una civiltà che c'è stata, oppure semplicemente nell'oblio dell'entropia dell'universo alla fine tutto finirà così e chi se ne frega, e arrivederci e grazie. Però ecco, questa cosa in particolare, appunto questa cosa dell'uomo solo, l'ultimo sopravvissuto, di una persona che dopo una qualsiasi catastrofe immagina, pensa o percepisce ad essere l'ultima persona rimasta in vita, tra gli stenti, la fatica, la malattia e questo tentativo di sopravvivere per non abbandonarsi alla disperazione fino al momento in cui poi ovviamente morirà, perché inevitabilmente non riuscirà chiaramente a sopravvivere alla mancanza di risorse, di qualsiasi cosa, no? Ecco, questa è un'immagine che ci ha sempre impresso da quando ero ragazzino, non so perché, non l'ho mai analizzata, e quindi per questo che poi quando un po' sono esplose tutte queste questa moda, diciamo, di tutta la narrazione post-apocalittica, chi la faceva seriamente, chi la faceva in maniera grottesca e anche ironica come Fallout ad esempio, per me sta roba c'ha sempre avuto un fascino, cioè con me sono andati proprio sul sicuro, perché ero già predisposto a questo tipo di cose, e quindi tante volte mi dicono ah ma tu sempre la roba dei zombie, sempre la roba post apocalittico, sempre post nucleare, roba, e sì, perché è proprio pensare, forse poi c'è, fai questo raffronto, no, tra come sei tu, quella che è la tua vita, e quello che sarebbe in quelle condizioni. Cioè, nel senso, immaginate se un giorno la società per come la conosciamo, la civiltà per come la conosciamo, crolli improvvisamente per un qualsiasi evento, per una qualsiasi situazione. E poi non è che ci stiamo andando tanto lontano, tutto sommato, se proprio ci vogliamo pensare. E immaginate come diventerebbe la vostra vita. Io tante volte mi sono interrogato, che farei, dove andrei, dove rifuggerei. Io, almeno io ce l'ho un posto dove dico, oh, ragazzi, no, e non saprei neanche come comunicarlo agli altri. Cioè, tipo, ragazzi, vediamoci lì e barrichiamoci dentro quel posto che tutto sommato possiamo fare il nostro baluardo, da un certo punto di vista, il nostro avamposto, no? E mi fa ridere questa cosa, perché poi dopo invece è proprio, anche quando tu pensi questa cosa, la pensi in funzione di come vivi in questo momento. Cioè, che cosa ho detto prima? Ho detto, io direi agli altri, ragazzi, vediamoci lì. E come glielo dico? È crollato tutto, non c'è più niente, non c'è infrastrutture, non c'è comunicazione, non c'è tecnologia, no? E quindi ovviamente è ovvio che non può crollare tutto istantaneamente nello stesso secondo, quindi diciamo che un minimo magari uno riesce un po' a organizzarsi prima della grande fuga, insomma. Però ecco, è una cosa che mi ha sempre affascinato. Io non lo so perché, non lo so per come, è un dato di fatto, e ci ho sempre pensato al fatto che mi sarebbe piaciuto scrivere qualcosa su questo, però mi rendo anche conto che non sono addestrato, non è la cosa sulla quale poi ho dedicato tantissime attenzioni. Delle mille idee e pochi talenti che ci ho sempre avuto, mi sono sempre dedicato a fare mille cose e poi non l'ho mai focalizzata, non l'ho mai centralizzata. Era un po' come dire, io arrivo a questo punto, sì, interessante, però vabbè, lo posso fare, quindi perdevo interesse, no, a un certo punto di vista. Anche questo è un aspetto molto molto psicologico e molto molto personale, del modo in cui magari, e del motivo per quale ovviamente sono trovato a fare 150.000 cose e poi magari non ne ho focalizzata veramente nessuna. Yeah! Vabbè, e poi è arrivato Gemini 2.5, come avevo già raccontato in un'altra puntata, è arrivato Gemini 2.5 nella sua versione preview, che si è anche tra l'altro ulteriormente aggiornata, e quindi c'è anche un ulteriore upgrade. E insomma, alla fine, insomma, mi è capitato di vedere questo video di sti senti fantaguru, no? che praticamente stanno lì sempre a esaltare tutte le prodezze dell'intelligenza artificiale, che quanto è bella l'intelligenza artificiale. Però allora io già ho fatto sempre una distinzione, poi ne parleremo anche con Vannini, con Carlo Sant'Agostino, stiamo organizzando una live. E io non, per me non, il discorso dell'intelligenza artificiale è ovviamente un concetto molto fuffa da un certo punto di vista, è tutto marketing. Però ci sono gli LLM, quindi i modelli linguistici, che possiamo anche, e io non li chiamo quasi mai intelligenza artificiale, utilizzo a volte il termine intelligenza artificiale proprio perché comunque è una questione di convenzione, per far capire agli altri, perché io parlo con una persona e dico gli LLM, quello mi dice, capito, allora, intelligenza artificiale, capito, perché come se questi li avessi illuminati in una maniera così preponderante. Comunque, al di là di questo, c'è un Raffaele Gaudo che io seguo un po', l'ho criticato, ho commentato anche in maniera critica determinate cose, però è vero che lui comunque, basando tutto insomma su questa cosa dell'intelligenza artificiale, dà anche tantissime informazioni, e un giorno si è uscito con questa cosa che Gemini 2.5 era la panacea degli sviluppatori. Grande evoluzione, grande passo avanti, prevalentemente perché era sicuramente uno step in avanti, quindi i modelli linguistici che capiscono le tue richieste e elaborano insieme a te ovviamente delle soluzioni, e soprattutto dal punto di vista del coding. E allora io ero incuriosito da sta cosa, cioè nel senso, non è che ho detto ah bello adesso facciamo questo, facciamo quell'altro, ho detto ah, fammi vedere, lo voglio proprio testare, perché poi lo scopo era quello di vedere veramente se questo modello linguistico era in grado di fare le cose che dicevano. Ma non solo, non si trattava di fare una home page, di fare un piccolo giochino. Io sono partito con una cazzatina, ho detto facciamo un gioco che avevo visto su Tandem quando ero ragazzino, che era un gioco forse fatto con BIC20, forse con Spectrum, non lo so, dove c'era praticamente un cursore lampeggiante in una mappa fatta a griglie, dove c'erano, che ne so, R erano i restore, altre cose colorate erano magari altre, e dove c'erano penalità e c'erano delle risorse, insomma dei bonus, diciamo così, e tu devi arrivare al punto A al punto B, questo era lo scopo del gioco. E io così l'ho improntato, dandogli però un tocco, diciamo, da gioco di ruolo. Infatti proprio recentemente nel gruppo di sviluppo di The Safe Place, che è questo progetto ovviamente che prima si chiamava Il Viaggiatore, in origine si chiamava Il Viaggiatore, abbiamo ritirato fuori vecchie immagini di com'era l'interfaccia del gioco all'inizio, com'era basica, com'era proprio semplice, facile da giocare anche sugli smartphone, perché era totalmente responsiva e via dicendo. Però poi c'è stato un momento in cui questo progetto io l'avevo finito, era finito, cioè l'avevo chiuso, e avevo dimostrato che per fare un certo tipo di progetti, come ideatore concettuale, designer, utilizzando però esclusivamente l'LLM per la parte di sviluppo, quindi per la parte di costruzione del codice, quindi da non sviluppatore, ero riuscito a concludere un progetto. E per me poteva anche finire lì, no? Cioè, nel senso, la mia era una sperimentazione che stavo documentando. Tra l'altro poi parleremo anche della documentazione, perché oggi voglio dedicare anche un po' di attenzione proprio su questa cosa della documentazione. Perché c'era un documento di progettazione a un certo punto, cioè mi sono reso conto, ah vedi che carino che ho fatto, ho scritto un abbastanza articolato documento di progettazione, una sorta di bibbia di design, e mi sono messo a lavorare poi su quello, cioè perché poi questo documento aveva una bivalenza: una, sviluppare il progetto, ulteriormente estendere il progetto, e due, confrontarmi con quelle che erano ovviamente le caratteristiche del progetto stesso, ossia praticamente una sorta di sperimentazione per vedere quali erano i limiti oggettivi dell'LLM, ma anche qual erano il limite oggettivo mio, perché anche della persona che interagiva con l'LLM. E quindi questo gioco poi si è espanso in una maniera fuori scala, è nata una storia, ho scritto in maniera molto veloce un romanzo breve che è, praticamente rappresenta, come posso dire, una sorta di prequel della storia che si chiama Echi prima del silenzio, che praticamente racconta del prequel del gioco, ossia quando il padre, successivamente alla catastrofe post apocalittica, diciamo, porta il figlio piccolo a crescere fino ad arrivare all'età, insomma, di 17 anni, addestrandolo e spiegandogli quello che stava succedendo e cercando di aiutarlo a sopravvivere, fino a che un giorno il padre a un certo punto va via, se ne va, e lasciando un messaggio, lasciando una lettera a Ultimo, guardate caso, insomma, il personaggio si chiama Ultimo, che l'ultimo uomo, la canzone, The Last of Us, cioè, comunque ovviamente le ispirazioni, cioè non c'è niente d'originale in tutto questo, però diciamo che finisce in quel momento, ed è quel momento in cui in realtà poi inizia la storia del gioco. E allora io questo gioco l'ho continuato ad espandere, ci ho messo diversi eventi, tanti eventi, tante situazioni, eventi a secondo dell'area geografica dove si trova, quindi, che ne so, pianure, incontri certe situazioni, villaggi, incontri altre situazioni, cittadine, incontri altre situazioni, foreste, incontri altre situazioni, fiumi, incontri altre situazioni, quindi tutta una serie di eventi che si scatenavano e innescavano praticamente una sorta di meccanismo molto casuale basato su un dado da 20, ma senza regolamento intorno, che diceva se quella cosa l'hai portata a termine o non l'hai portata a termine. Poi c'è l'inventario, l'accumulo di oggetti, la staccabilità degli oggetti, cioè nel senso che se io ho delle bende sporche non ho due bende sporche che mi occupano due slot sull'inventario, ma ho cinque bende sporche, per esempio, per capirci. Poi vabbè, abbiamo, insomma, quindi un sistema di HP, le difficoltà, un bilanciamento della difficoltà per arrivare alla fine, e questo poi piano piano si è un po' espanso, abbiamo cercato di risolvere, e poi più cresceva il progetto e più ovviamente uscivano fuori bug che neanche vi dico, e forse questo è stato il momento più drammatico, perché sono stati dei momenti in cui mi sono pentito di non aver chiuso il progetto quando lo potevo chiudere, perché l'avevo esteso talmente tanto che l'LLM stesso non riusciva a stargli dietro, e quindi forse è uno dei grandi problemi che poi ho documentato appunto in questi piccoli book che ho scritto, uno quello della Bibbia di progettazione e uno il diario di sviluppo, una sorta di resoconto finale di quello che è il progetto. Sono due testi diversi che inserirò poi nel mio sito simonepizzi.runtimeradio.it, dove ovviamente mi ero reso conto che c'è stato proprio un problema oggettivo su questo tipo di discorso, che è stato il non essere più l'LLM, non essere più in grado di gestire la quantità di codice e di informazioni che erano all'interno di questo progetto. In più c'era un problema di memoria persistente, ossia comunque quando l'LLM arrivava al limite della sua memoria, si resettava e continuava a lavorare, e a quel punto non avendo consapevolezza di quello che stava facendo faceva dei disastri, a volte delle regressioni importanti, e ho dovuto fare del refactoring, della ricostruzione del codice. Insomma, se nel modo in cui ho portato avanti il progetto, che era l'intenzione non tocco codice, fa tutto l'LLM, da quel punto di vista il progetto è fallito. Però poi alla fine il progetto, tra tanti sconforti, esaltazioni, momenti di grande euforia e allo stesso tempo momenti di grande disperazione, c'è stato un momento in cui veramente stavo per buttare tutto. Però poi ho detto, non può essere come tutte le volte che a un certo punto prendo e lascio perdere, ci devo riuscire, perché è pure una sfida, non è più un rapporto sperimentale nei confronti dell'LLM, ma è proprio diventata una sfida verso me stesso, cioè devo portare a termine questa cosa, e la devo portare a termine nel modo in cui l'ho iniziato, ossia con gli stessi presupposti e le stesse idee. E quindi praticamente alla fine diciamo questa storia appunto fatta di tasselli, di tile nella mappa, di eventi che appaiono come pop-up, con questa ristrutturazione dell'interfaccia, dare un colore più realistico all'effetto fosfori verdi, che poi in realtà poi ci sono anche altri colori, quindi il discorso cambia, cioè non è proprio così come come avrebbe dovuto essere originariamente, che era tutto verde, fosfori verdi, no? Però ovviamente mi rendevo conto che gli elementi erano talmente tanti a un certo punto che serviva una distinzione, sennò diventava un po' tutto confusionario. Quindi vabbè, abbiamo sete e fame, quindi c'è l'elemento di sopravvivenza proprio tipico, lo status, quindi malattie, malato, infetto, assetato, stanco, che insomma, varie cose. Poi c'è ovviamente l'inventario, che è diventato un inventario evoluto con il tooltip, che passi il mouse su un oggetto, ti dà l'informazione dell'oggetto, quanto vale, quello che ti fa recuperare, se ti fa recuperare, e adesso ci sono le porzioni, cioè nel senso un sopravvissuto nell'arco della giornata, quando si ferma la sera per nutrirsi, diciamo, non è se beve l'intera bottiglia d'acqua e tutto il cibo che c'ha, chiaramente no, non sarebbe sensato, il giorno dopo sarebbe senza acqua e senza cibo. Quindi c'è questa cosa del porzionamento, e poi c'è un log, il diario, che ti dice ovviamente come sta andando la tua storia, c'è la mappa grande fatta in asci. Poi dall'altra parte ovviamente sono tutte le statistiche, l'orario, perché quando, a che ore sono, se poi è diventata notte, a notte subentrano altri pericoli, poi ci sono le statistiche, e poi c'è l'equipaggiamento, l'arma e l'armatura che tu equipaggi, più abbiamo aggiunto poi alla fine questa cosa del D&D semplificato, delle primissime regole degli anni 70, proprio per rimanere un po' in tema, dove tu puoi far crescere il personaggio a secondo dei punti che guadagni e dei livelli che cresci, puoi dare praticamente punti alle varie specifiche delle statistiche, e poi il crafting, ragazzi, quello è stato un momento drammatico, insomma. E qui eravamo arrivati praticamente a una sorta di versione 0.9.2, ed è stato il momento in cui bisognava decidere se siamo finito. Se avevo finito, perché poi vabbè, parlo al plurale, perché cioè, in realtà sto lavoro io l'ho fatto con l'LLM, ma l'LLM non è una persona, non è un collaboratore, cioè, è comunque uno strumento, e come dico io, è un'interfaccia per fare cose. Io da questo punto di vista apprezzo questa cosa. Poi ci sono tutti gli aspetti controversi, le polemiche, il lavoro degli altri, è giusto, sono d'accordo su tutto, però insomma, poi alla fine comunque per me è una sperimentazione. E poi questo problema nel mondo della tecnologia c'è sempre stato, sempre, sin dagli tutti quelli che erano i computatori, no? Quelli che facevano i calcoli nelle grandi aziende, un giorno non hanno perso il posto di lavoro per i computer. Purtroppo questa è l'evoluzione, che ci piaccia o non ci piaccia, che noi la contestiamo, la vediamo negativamente, sono d'accordo su tutto, però questa è l'evoluzione, fa parte proprio di un processo, di un cammino che è proprio quello dell'evoluzione. Purtroppo è così, quindi ragioniamoci e integriamo l'evoluzione in maniera tale che le persone abbiano il tempo di adattare la propria professionalità alle cose che evolvono, perché come dico sempre anche a tanti sviluppatori con i quali ho parlato, secondo me lo sviluppatore deve iper professionalizzarsi anche da questo punto di vista. E poi è vero anche che oramai questi LLM, queste cosiddette intelligenze artificiali, oggi stanno presentando il conto, e quindi l'utilizzare questi strumenti non sarà più alla portata di tutti, anzi sarà alla portata solo dei professionisti, quelli importanti, perché 150-200 euro al mese per utilizzare questi strumenti è al di fuori della possibilità di con qualsiasi hobbista. Quindi pure questo è una cosa che va tenuta in considerazione, secondo me è molto importante. Comunque torniamo dopo, che vi dico la 1.0 che cosa è successo. Vabbè, vabbè, rientriamo, che questi menano, pistano de brutto. Comunque, ricapitoliamo quindi. Siamo andati su Gemini, su iSchool Studio, gli abbiamo dato il documento concettuale di quello che volevamo fare, tutto in punti ben dettagliati. Lui ha iniziato a sviluppare questo progetto, è nato praticamente, si è costruito in unico file HTML. Il progetto è nato così, come un web game esclusivamente su un solo file HTML. Ovviamente più inserivamo cose e più bisognava ovviamente estendere il progetto, quindi cominciare a fare dei CSS specifici all'interno di un file CSS, altrimenti l'HTML diventava devastante. E più ovviamente abbiamo cominciato ad inserire elementi JavaScript, e quindi bisognava fare poi tutta una nomenclatura di file JavaScript. A quel punto l'utilizzo di Gemini 2.5 all'interno di iStudio, quindi tramite il browser, era diventato infattibile, perché lui ovviamente ti costruiva il codice, poi eri tu che dovevi un po' organizzare. E qui ci vengono incontro praticamente quei tool basati su Visual Studio Code, come Cursor. Io nello specifico ho utilizzato Cursor, che gli aprivi il progetto, gli davi gli elementi, gli input, tutta la documentazione, lui controllava il codice e da lì in poi tutte le modifiche le faceva in maniera strutturale, senza, perché già comunque la prima parte aveva creato tantissimi problemi, chiaramente, perché lui ti dava il codice, ma se tu non sapevi comunque bene dove come gestirle, quindi ogni volta gli dicevo: va bene, rigenerami totalmente da zero tutto il file, e quelli erano tutti i token che se ne andavano, tutta memoria che tu consumavi all'interno del Gemini. E quindi ovviamente poi questa cosa si è espansa, si è evoluta, e ho utilizzato questo strumento che comunque in qualche maniera ha permesso di espandere in maniera organica, dove lui faceva tutte le correzioni necessarie su tutti i file che tenevano conto ovviamente di tutte quante le cose. Io su questo elemento devo dire di aver acquisito competenza. Secondo me oggi, tra le persone che conosco, sono probabilmente la persona più competente per poter discutere e affrontare questo tipo di tematiche, perché ho imparato tantissime cose e ho trovato tantissime soluzioni per bypassare quelli che sono stati i problemi più gravi, principalmente in senso assoluto quella dell'inconsistenza, della coerenza della memoria, perché chiaramente l'LLM quando arriva al suo limite poi si risetta tutto e non ha nessun tipo di consapevolezza di quello che stavi facendo, e se tu non ti rendi conto di questo fatto, di questo passaggio, quello che tu hai costruito diventa un disastro, perché è in grado di fare dei casini che voi non vi immaginate, chiaramente portando regressione del codice e pensando che per risolvere quel bug bisognava ripristinare quella porzione di codice o cose del genere. Quindi sono stati dei disastri, ragazzi, che voi neanche vi immaginate, però poi insomma alla fine comunque in qualche maniera mi sono preso una pausa, anche una pausa importante. Ho scritto il prequel, quindi il romanzo breve, che è breve, sono poche pagine, sono una quarantina, cinquantina di pagine, insomma. L'ho fatto leggere a Puccio mi ci ha scritto un'introduzione. Mi ha fatto piacere, mi piacerebbe dargli una dignità anche a questo, anche se non spendendoci soldi, perché non lo metterò in distribuzione come cosa da vendere, insomma. È una cosa che secondo me deve essere allegata al progetto. Infatti nella pagina che sto costruendo su simonepizzi.rantemedio.it, quando si parla di The Safe Place, c'è i tre documenti fondamentali, ossia praticamente la Bibbia originale, il resoconto, il diario di sviluppo, quindi il resoconto complessivo con tutte le mie osservazioni, anche le mie conclusioni finali e l'esperienza che ho tratto da questa cosa, e poi ovviamente il romanzo, che secondo me comunque, se poi dopo vuoi dare un contesto alla storia, secondo me è carino da leggere, è una cosa carina da leggere, non è una cosa, oddio, è indispensabile, cioè, è una stronzata, sta messa lì proprio per dire: oh ragazzi, c'è anche questa cosa qui, proprio perché avevo bisogno un attimo di staccare la testa da una cosa che stava diventando devastante da questo punto di vista, perché chiaramente era diventata poi un po' un'ossessione, e in più ovviamente non riuscivo a venire a capo di quelli che erano determinati problemi. E questo poi mi ha permesso anche di ripartire con la mente fresca. Poi ragazzi, è successa una cosa, quindi abbiamo inserito tutti questi elementi, siamo arrivati alla 0.9.0.2, anzi, e stavamo cercando di finalizzare altri progetti e lì Google non ce la faceva, perché non ce la faceva, ragazzi, non ce la faceva, non ci arrivava, non riusciva a trovare le soluzioni per fare determinate cose. Proponeva, tu gli davi il dettaglio di quello che doveva essere e lui proponeva delle soluzioni, ma erano spesso non funzionavano, introducevano altri bug. Questo sarebbe la cosa anche più normale da un certo punto di vista. E poi così, qualche giorno fa, ragazzi, è stato il cambio di passo, secondo me. Qualche giorno fa è stato annunciato appunto l'uscita, me la sono trovato così, era sul gruppone, per caso c'è Cloud Sonnet 4 che ha cambiato completamente il passo a questo progetto, perché Cloud Sonnet 4 fa un passo nel coding, un passo in avanti che fa paura. Oggi se tu retrocedi e riutilizzi Gemini 2.5 ti sembra che Gemini 2.5 è stupido, cioè è stupido, perché sono tutti stupidi. Però non riesci più proprio. Però il problema è che ho avuto l'opportunità di utilizzare Sonnet 4 fino a che mi è stato consentito, cioè c'è stato un periodo in cui, diciamo, lo potevi utilizzare su determinati strumenti come Cursor, e adesso è tutto a pagamento. Cioè Sonnet proprio è impossibile. Giustamente loro dicono: tiè, qui abbiamo spaccato il culo a tutti, però mo, se volete, insomma, scacciateli gli sghei, perché ovviamente, come abbiamo detto, qui sta cambiando tutto da questo punto di vista, no? Anche perché non è che possono continuare a buttare miliardi dentro al cesso, secondo me non li recupereranno mai, ma se non altro provano a dare un modello di business a questa cosa, no? E quindi questo è stato un po' un problema, perché quando mi sono reso conto che poi dopo Sonnet 4, Sonnet Opus, vabbè, neanche ci ho provato perché lì era già comunque così. Quando ho visto, insomma, che non si poteva più utilizzare, è stato un dolore incommensurabile. Un dolore, chiaramente, sempre nel contesto e nello scherzo, giochiamoci anche un po' su sta cosa. Sonnet 4 è stato il passo, perché è il momento in cui è nata praticamente la versione 1.0.0 Ultimus Journey, che è il nome che davo io a ogni versione, c'aveva un nome ovviamente. E questo è stato bello, perché è stato proprio evocativo da un certo punto di vista, no? Vedevo proprio quando ho detto ok, finalizziamo e consolidiamo la versione 1.0, anzi la versione 1.0.0, e lui ovviamente ha costruito praticamente tutto il pacchetto in modo che sia committabile per GitHub. Ovviamente il progetto è su GitHub, anche se è stato committato ieri la 1.0, ma ci sono ancora delle cose da sistemare. Però ero arrivato a un punto, ok, metto un attimo la sala cinesca qui, perché sennò poi continuo, poi perdiamo altri casini. Comunque insomma, abbiamo chiuso, consolidato questo progetto, perché in questo caso l'ha fatto Sonnet 4, abbiamo inserito gli ultimi elementi che erano appunto quelli volevo mettere un combattimento testuale avanzato a turni, ma era infattibile, dovevo prototipare un'altra cosa, cioè non era verosimile. E quindi praticamente, avendo inserito le regole D&D all'interno del gioco, ho cercato di spiegare quella che era la mia intenzione, ossia di utilizzare le regole D&D per trasformare gli eventi semplici, quelli là che tu incontri un nemico, lui faceva un dado così a caso, vedeva se avevi preso due o tre schiaffi e te levava dei punti HP, perché questo era quello che succedeva prima, prendere questi eventi semplici e trasformarli in un combattimento automatico avanzato, ossia doveva utilizzare le regole di D&D con le caratteristiche del personaggio, le caratteristiche del nemico. Quindi abbiamo dovuto costruire un database dei nemici, e a quel punto lui faceva questo combattimento avanzato narrativo, cioè lui ti raccontava quello che succedeva quello che sta succedendo praticamente nel combattimento, dando quel feedback temporale per creare un po' di suspense tra un evento all'altro, segnando di rosso quando ha preso gli schiaffi, segnando di verde quando, insomma, alla fine è andata bene. E poi abbiamo inserito altri due elementi, una timeline narrativa, una lore globale del gioco, c'è tutta la storia praticamente da quando Ultimo lascia praticamente la sua casa, che era da dove è stato insomma lasciato da solo col padre, fino all'obiettivo. Ok, quindi ci sono questi 10 punti che tu incontrerai nell'arco della storia, più 15 frammenti di lore sparsi che puoi trovare, più degli oggetti speciali di lore che questo è, e quindi li abbiamo integrati all'interno della mappa utilizzando un sistema intelligente basato sul tempo, sui tile fatti, sul percorso trascorso e soprattutto sul tempo che è passato, quindi se è passato un giorno, due giorni, tre giorni e via dicendo. Chiaramente lui triggera praticamente questa sorta di eventi. E poi gli achievement, ragazzi, ce l'ho dovuto mettere perché è una tamarrata, ma ce l'ho dovuto mettere. E quindi Ultimo è partito per il suo viaggio, è partito per il suo viaggio, l'abbiamo consolidato ed sono felice di questo perché ho chiuso un'idea, ho chiuso un progetto. Poi se funzionerà veramente alla fine mi interessa fino a un certo punto, perché non era quello lo scopo. Lo scopo alla fine era quello di chiudere il progetto, di aver completato, che funziona abbastanza, ma poi magari lo rifiniremo un po', ci sono tante altre cose da inserire, i suoni, però non lo so se lo farò, devo dire la verità, non lo so se ci dedicherò ancora tempo, lo voglio solo rifinire, mettere ovviamente a posto se ci sono dei bug importanti, voglio vedere com'è, perché a un certo punto ho chiuso proprio la saracinesca, insomma. Però è stato interessante questo percorso, ho imparato come risolvere determinati problemi, ho imparato come bypassare altri problemi, mi sono addestrato sul come istruire l'LLM rispetto alle cose che volevo fare, ho veramente secondo me acquisito una competenza da questo punto di vista, e questa cosa mi fa piacere, perché comunque in qualche maniera magari anche da un punto di vista tra virgolette professionale mi può essere utile, magari che ne so, cioè nel senso, comunque se poi in generale se qualcuno ha determinati problemi e so che magari mi verranno a chiedere come l'ho risolto io, no, certe cose, ma io comunque ho più o meno documentato tutto, quindi metterò tutto a disposizione delle persone, perché non è il mio scopo, lo sapete, il motivo per cui mia moglie mi odia è il fatto che io non finalizzo le cose che faccio dandogli un senso professionale o commerciale come fanno tutte le persone normali, no, io distribuisco al mondo, che il mondo sappia che il mondo sia erudito di tutte queste cose, insomma. Vabbè, Ultimo è partito per il suo viaggio, ragazzi, poi ne parleremo prossimamente in maniera più dettagliata, sia dal punto di vista un po' magari del coding, ma soprattutto della soluzione, del problem solving, di come io ho risolto certi determinati problemi, come ho ottenuto traccia di tutto il materiale, di come ho fatto log di ogni genere e come ho risolto parzialmente, perché non puoi risolverlo in maniera totale, ma in gran parte ho risolto quello che è il problema della regressione del codice, ossia quando tu stabilizzi e comunque informi dando delle regole primarie assolute che le parti consolidate del codice non devono essere toccate se non per determinate motivazioni specifiche che ovviamente poi devono essere concordate con l'essere umano piuttosto che prendere iniziativa, perché poi uno dei grossi problemi di questi modelli è che a volte prendono iniziativa, stanno lì tipo guarda quanto sono bravo, te sto a fare un favore, invece in realtà mi stai a fare incazzare. Va bene, detto questo ragazzi, questa è la storia di Ultimo. Ultimo è un ragazzo di 17 anni che si ritrova da solo in un mondo post-apocalittico e deve raggiungere The Safe Place, questo posto sicuro, perché il padre gli ha lasciato un messaggio dicendo che è dovuto partire, se lui legge quel messaggio evidentemente lui non è tornato, il The Safe Place esiste, l'ha visto, c'è, quindi affrontate la storia di Ultimo e leggetevi comunque, quando ve lo pubblicherò, vi comunicherò questa cosa, il prequel, perché secondo me il prequel aggiunge molto alla fine alla storia, che dice cose, quindi questa lore principale dice cose, ma fanno riferimento a un passato che, come tante volte succede, fanno riferimento a un passato che non è raccontato, però io poi alla fine mi sono trovato lì a divertirmi e ad raccontarlo. Detto questo ragazzi, io vi saluto, vi dico che domenica probabilmente con Michela torniamo e piano piano spero insomma che si riattivino le live di Runtime Radio, ci stiamo riorganizzando, ci stiamo anche un po' riprendendo. Ne approfitto per fare un saluto a Walter, lo faccio a fine trasmissione perché non... Io rispetto tantissimo proprio la sua esigenza di discrezione. In generale è una persona molto riservata, e lo capisco e lo rispetto. Però a nome mio, di Michela e di tutto quanto lo staff dell'Antime Radio, ancora oggi siamo vicini a Walter, lo stringiamo in un abbraccio virtuale, anche non virtuale, e dai Walter che siamo comunque tutti intorno a te, se hai bisogno, quando hai bisogno, non ti preoccupare, e il giorno in cui tornerai ovviamente a fare orazioni saranno tutti lì ad aspettarti, e questo penso che tu ieri te ne sei anche un po' reso conto, insomma. Ciao e buona giornata a tutti. Questa è Runtime Radio.